è stato quasi un anno da quando sei partito. Ricordo quello che m'hai detto il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto, non sono nessuno per te. Diventerò qualcuno. Amore, ritorna, le colline sono in fiore ed io, amore, sto morendo di dolore. Amore, ritorna, non importa, non fa niente se tu non sei diventato più importante, perché sei importante per me. Un giorno è lungo ed un anno è lungo da morire. Ricordo quello che m'hai scritto e ho tanto freddo dentro al cuore. Va tutto bene, ti penso sempre e spero di tornare un giorno o l'altro. Questa fortuna dovrà decidere se arrivare. Perché sei importante.